Buongiorno a tutti da Antonio Pavolini e benvenuti al 26esimo numero di Conversational, la rubrica di Radio Popolare Roma dedicata alla rivoluzione dei social media. Mentre per fortuna i nostri governanti tengono la barra a dritta e approvano provvedimenti fondamentali per l'interesse generale del paese, la punta più avanzata del giornalismo televisivo nazionale, l'autoproclamato cane da guardia delle istituzioni democratiche, può finalmente occuparsi della vera grande minaccia che incombe sugli italiani, i social media naturalmente. Scherzi a parte, per le voci più ascoltate della rete, l'ultima puntata di Report, una lunga inchiesta sulle pratiche poco trasparenti di Facebook, Twitter, eccetera, poteva fornire lo spunto per discutere seriamente di temi comunque centrali nei nuovi ecosistemi della comunicazione, ma è stata ancora una volta un'occasione perduta. Ne parliamo tra pochissimo. Facebook si basava su pochi concetti molto semplici. Le persone vogliono condividere e connettersi con le altre persone intorno a loro. Quando la gente ha il controllo su quello che condivide, si fiderà a condividere di più. Più la gente condivide, più il mondo diventa aperto e connesso. E in un mondo più aperto, molti dei più grandi problemi che noi tutti ci troviamo a fronteggiare saranno più facili da risolvere. Fai sapere i cavoli tuoi, perché è un bene per il mondo. Però quelli di Facebook, quando si tratta di loro, non sono poi tanto desiderosi di farsi trovare. Facebook non vende i dati personali degli utenti. Ma compilate dei profili? Noi non abbiamo bisogno di farlo. Facebook ha dei profili che gli utenti si sono compilati da sé volontariamente. Facebook non ha bisogno di fabbricare dei dossier, perché ognuno dei suoi utenti se lo fabbrica da solo e glielo consegna, e loro lo possono usare per vendere la pubblicità. Motivo per cui ogni utente è stato valutato fino a $100 e quindi Facebook vale ufficiosamente 50 miliardi di dollari per gli investitori, che sono la banca Goldman Sachs, ma anche la Microsoft, il miliardario russo Yuri Milner e il magnate di Hong Kong Li Ka-shing. È a loro che i 17 milioni di utenti italiani di Facebook stanno consegnando i loro profili personali, completi di età, indirizzo, data di nascita, sesso, gusti, eccetera. Allora, questa era l'introduzione della puntata di Report andata in onda la scorsa settimana, una puntata che ha sollevato, come si dice in questi casi, un vespaio di polemiche. Puntata realizzata tecnicamente ancora una volta in modo impeccabile dall'accoppiata Gabbanelli-Rimini. Stefania Rimini è la vera autrice in realtà di questa inchiesta. Che ha puntato il dito contro l'invasività, la pervasività di social network come Facebook, come Twitter, e sicuramente è stato in grado di comunicare al grande pubblico un tema che non ottiene il giusto livello di attenzione. Il problema è che probabilmente è stata un po' un'opportunità, diciamo, per un mainstream media come la televisione di parlare di internet, e ancora una volta è passato il messaggio che attraverso internet soprattutto gli utenti sono l'oggetto di pratiche poco trasparenti, sono fondamentalmente delle vittime, non sono in realtà in grado di governare l'esperienza che vivono. E detto da un mainstream media, bene, tutto questo ha sollevato una levata di scudi, diciamo, da chi, secondo me, ha torto, pretende di rappresentare tutta la rete, cioè questa schiera di voci influenti, di blogger importanti che hanno, diciamo, intorno a loro un certo seguito e si sentono in obbligo di dire la loro. Ne parliamo oggi in studio intanto con Alessandro Nasini, che saluto, torna in studio. Un saluto a chi ci ascolta. Dopo qualche puntata, Alessandro Nasini, che è una delle voci sicuramente più autorevoli su questi temi, anche perché ne ha viste parecchie in tutti questi anni. Ha un blog, diciamo, dove parla di cibo, però soprattutto interviene nelle discussioni sempre in modo abbastanza che non passa inosservato. È anche, diciamolo, fondatore di Maple, che è un'agenzia, si può dire una web agency, o è passato anche, di moda, sì. Anche, no, ma non soltanto. Intanto, ecco, vorrei chiederti una prima riflessione istintiva su quello che è successo soprattutto questa settimana dopo che è andata in onda questa puntata di Report. Certo, ma io intanto ti riporterei il primo commento che ho fatto a caldo dopo aver visto la trasmissione. Io ho commentato e ho scritto un brutto scivolone per Report, e questo è stato il commento a caldo a fine trasmissione. Devo dire che la trasmissione non mi è piaciuta per tutta una serie di ragioni che poi probabilmente, diciamo, delle quali parleremo. Non mi ha emozionato, francamente, nemmeno la reazione soprattutto della cosiddetta blogosfera, o perlomeno di una buona parte di questa. Perché se a, diciamo, errore o mezzo errore o a inciampo si risponde saltando sulla schiena di chi è inciampato, alla fine se ne esce un po' tutti quanti sconfitti. Quindi se il Report ha mancato, come personalmente credo che stia facendo in una certa misura già da alcune puntate a questa parte, cioè io non ho trovato questa puntata sulla rete molto peggiore di qualche altra puntata ho visto recentemente. Certo, questa è una materia della quale sono più esperto, o perlomeno mi ritengo tale, magari sbagliando, e quindi alcuni errori sono risultati più amplificati magari. Però certo è che ha una serie di, diciamo, di approcci secondo me non corretti a problemi della rete. La rete ha risposto con un coro di urla e strepiti. Direi una serie di riflessi condizionati, no? Sì, ormai ci siamo abituati, quasi ce lo aspettiamo, che se si toccano certe corde, esatto. Poi soprattutto c'è una, lasciami dire, un po' un equivoco di fondo. Una cosa sono le piattaforme e l'industria che governa queste piattaforme determinando effetti per la grande massa degli utenti. Assolutamente. Una cosa sono gli utenti che usano le piattaforme, già bisogna fare questa distinzione. Poi soprattutto c'è un gruppo piccolo di utenti che ritiene di essere rappresentativo per tutti gli altri, e questo secondo me è un errore molto frequente e anche piuttosto grave. Sì, tra l'altro, diciamo, in questo caso c'è, chiamiamola così, l'aggravante che la puntata era stata annunciata, quindi erano state create delle aspettative, delle attese. Perché poi la Gabanelli, attenzione, nel mondo della televisione mainstream era considerata nella cosiddetta blogosfera quasi una mosca bianca, proprio perché ha questa struttura anche completamente in outsourcing rispetto alla televisione pubblica, quindi ha una grandissima autonomia di movimento. Se vogliamo, è forse uno dei programmi più web, detto fra virgolette, che vanno sulla televisione convenzionale. E quindi dobbiamo essergli sicuramente riconoscenti per aver scoperchiato tanti problemi che poi ricadono sui diritti dei cittadini, dei consumatori. Ne abbiamo viste veramente di tutti i colori in questi anni. In questo caso, come dire, siccome quando si parla di web in televisione di solito vediamo le sfuriate di Bruno Vespa o le scenate di Emilio Fede, che insomma ne abbiamo già parlato ampiamente anche in questa trasmissione, che sono però ormai folklore dal nostro punto di vista, ci aspettavamo quantomeno da Report un approccio diverso, un po' più a 360 gradi. E forse invece quello che è venuto fuori è che non basta la libertà, l'indipendenza di movimento, bisogna anche liberarsi dal sensazionalismo, liberarsi dalla tendenza comunque a dover partire da una tesi precostituita e poi raccogliere elementi un po' a supporto, perché questa è un po' la sensazione che ho avuto io di questa trasmissione. Io so che posso fare una trasmissione di successo se dico che, attenzione, Facebook è una minaccia per la privacy, i nostri profili sanno tutto di noi, ci fanno soldi. Parto con questo messaggio forte che arriva alla famosa signora Cesira, poi sentiremo anche la Gabanelli menzionarla, e poi devo ottenere del materiale a supporto di questo principio precostituito. E questo, lasciatemi dire, non solo cattivo giornalismo, direi che proprio è un processo che, per dimostrare una verità, fa acqua un po' da tutte le parti. Sì, soprattutto se, e credo che sia forse l'elemento che in questa puntata è uscito più forte, quando quel lavoro, diciamo, di cucitura fra i servizi, che normalmente è il forte della Gabanelli, cioè lei ha una grossa capacità sia di sintesi che di proprio di cucitura fra i vari elementi. In questo caso, francamente, ho avuto l'impressione che la prima persona che non sapeva esattamente di che cosa stesse parlando fosse proprio lei, e questo francamente mi ha deluso parecchio. Sentiamo poi chiaramente anche quello che è successo dopo, perché dopo questa serie di post abbastanza indignati usciti dalle voci più influenti della rete, la stessa Gabanelli è stata intervistata sul sito dell'Unità e ha dato questa risposta, perché poi c'è stata come un'escalation ulteriore della polemica. Ascoltiamola. Noi non abbiamo fatto una puntata per la rete, che conosce benissimo, sa benissimo. Poi ci sono quelli che tante informazioni non sanno, per esempio l'uso dell'HTTPS, mi sembra di aver capito che ne sono in pochi a saperlo. Quindi abbiamo portato in una TV generalista un argomento che viene di solito discusso in rete fra competenti. E abbiamo dovuto ovviamente adattare il linguaggio, semplificare, fare tante cose, insomma, che adesso poi se non è piaciuto, pensa. Io penso che sia stato molto utile per tanti genitori, per anche tanti frequentatori di questi luoghi che tante informazioni non le hanno. Un blogger che è anche semiologo si chiede che senso ha aver dato alla trasmissione questo taglio e quale contributo pensi di aver dato al dibattito italiano sul cambiamento socioculturale veicolato dalla cultura digitale. Ma io non sono una sociologa, non è una questione che mi interessa. Io penso che volevamo capire noi un po' di meccanismi, ma ho capito che tanta gente non li sa, non li conosce. Abbiamo dedicato dei mesi a indagare questo mondo e a raccontarlo su una TV generalista. Già del fatto che se ne discute e la discussione non rimane sempre confinata in rete mi sembra, certo, una buona cosa. Dopodiché io non ho nessuna pretesa né di fare le cose perfette né di farle giuste, né mai ci mancherebbe altro. Cioè, se io vado sulla TV generalista è come, non lo so, cioè, sai, i bancari quando tu parli di prodotti strutturati vogliono che tu vada nel profondo, ma mi guarda anche la signora Cesira e io devo essere in grado di spiegare il prodotto strutturato alla signora Cesira. Cioè, la TV generalista non è la rete e quindi il popolo della rete deve portare pazienza se noi abbiamo usato un linguaggio semplice per spiegare cose da addetti ai lavori. Allora, dovremmo avere in collegamento telefonico da Firenze Gianandrea Facchini. Ciao Gianandrea. Ciao a tutti. Gianandrea, che è amministratore delegato di Buzz Detector, che è un'agenzia specializzata nel rapporto, diciamo così, tra aziende e social media, in particolare nell'ascolto, nel monitoring, anche insomma di parecchi altri servizi piuttosto avanzati. Però è anche lui una persona che partecipa a questi dibattiti. Mi piacerebbe presentarti come un fine polemista. Gianandrea, la verità è che sei intervenuto sulla vicenda Gabanelli, intanto per dire che cosa? Beh, diciamo che la mia considerazione generale è che più che intervenire ho ascoltato quello che veniva detto. Adesso però è l'opportunità di intervenire, esatto, pesantemente. Sì. No, ho ascoltato e devo dire che sono rimasto abbastanza basito da il livello di tronfiaggine che gira in rete, ecco. Nel senso che tutti coloro che hanno esaltato la trasmissione fino alla domenica precedente, quando poi nella miglior tradizione NIMBY, not in my backyard, certo, come la trasmissione è arrivata a toccare queste cose, e secondo me anche in un modo molto più intelligente e acuto di quanto non voglia sembrare, si sono sentiti offesi. Si sono sentiti offesi perché, a mio modo di vedere, si sono sentiti offesi perché alla fine la trasmissione ha parlato in un linguaggio molto semplice, molto anche didascalico, se vogliamo, di quelle che sono delle cose che vengono spacciate come astrofisica. E cioè molte persone che lavorano nel web 2.0 sono convinti di essere degli astrofisici. Allora, Gianandrea, io poco fa abbiamo sentito cosa ha detto Milena Gabbanelli in risposta a questa levata di scudi. Facendo l'estrema sintesi, ha detto: noi facciamo una trasmissione che si rivolge a un grandissimo pubblico, non possiamo entrare nel dettaglio tecnico fino all'ultimo, ci rivolgiamo alla signora Cesira. È simpatico vedere come cambiano i nomi di queste casalinghe. Una volta c'era la casalinga di Voghera, adesso c'è la signora Cesira, penso che diventerà a sua volta un tormentone. Il punto è che però io ho avuto la sensazione che questo rivolgersi alla signora Cesira non deve però costituire un alibi per dire qualsiasi cosa, perché poi il messaggio che arriva è che in realtà, allora, diamo per scontato che Facebook, Google lavorano molto sui profili, sulle cosiddette identità digitali, e in questa area ancora non ben regolamentata della gestione della privacy, quindi hanno delle pratiche poco trasparenti e ci costruiscono sopra dei business straordinari. Il punto è che però Google e Facebook in realtà stanno sottraendo attenzione e audience ai vecchi media, che non è che avessero un potere di manipolazione molto, molto inferiore. Diciamo che adesso è tecnologicamente più avanzato, ma se vediamo i risultati che hanno avuto i media, i cosiddetti watchdog della democrazia, i risultati che per esempio i nostri giornali, la nostra televisione, che tipo di democrazia ha abilitato? Beh, non c'è da stare molto allegri, Gianandrea. No, però io dividerei televisione e televisione, perché è indubbio che se noi guardiamo un determinato tipo di programmi, oltre ad avere dei dati di audience televisiva assolutamente non in calo, hanno in realtà un audience aggiuntiva, che è l'audience delle persone che seguono non solo il programma, ma seguono anche degli stream di conversazione paralleli in rete. Allora, questi vengono rilevati però da Nielsen, insomma, da... Lascerei perdere questo tipo di rilevazioni che secondo me tendono a essere, come dire, conservative. Un po' difficili da fare. Sì. Direi che sono poi i flussi di conversazione che si possono vedere, che si possono ai quali si può partecipare con estrema facilità. Questi sono realmente degli esempi di televisione partecipativa. La social TV la chiamano. Voglio dire, l'esempio di Sacconi che a Ballarò cita il sito Click Lavoro, che a suo dire sui motori di ricerca digitando lavoro o ricerca lavoro sarebbe apparso immediatamente su Google. Sì. E tutti si mettono a digitare e il sito non appare. E probabilmente il programma della Gabbanelli non aveva questo scopo, pur nella sua anche una certa superficialità, perché senz'altro c'è una certa superficialità, perché non si può andare più di tanto a fondo. Io su questo sono abbastanza d'accordo. Poi è ovvio che sono trasmissioni che cercano di creare attenzione, a volte attraverso la creazione dell'apprensione. Ma è altrettanto vero che alla fine le persone erano lì e commentavano quello che veniva detto. Va bene, Gianandrea, ascoltiamo un altro inserto della puntata e lo commentiamo poi insieme. Anche qui i dipendenti giovani lavorano in silenzio, con i loro scacciapensieri a portata di mano e un risultato in tasca di oltre 29 miliardi di dollari di ricavi nel 2010. L'affare sta nell'individuare i tuoi interessi e scodellarti una pubblicità su misura per te. Per esempio, se vai su un sito del meteo, noi sappiamo che ti interessa che tempo fa. E lo sappiamo perché c'è un codice di Google su quella pagina che fa comparire pubblicità lì. Così noi lo veniamo a sapere dal comportamento della sessione di navigazione e costruiamo un profilo di quello specifico utente. Non è dell'utente di Google, ma del navigatore. No. Profilo è una brutta parola? Sì. Noi non costruiamo profili con i dati degli utenti registrati, no. Ma i dati poi li vendete ad altri? Ovviamente no, non vendiamo nulla a nessuno. Sì, gratuiti, dai giochi agli incontri amorosi. Tutto bello, tutto gratis, ma se ti vai a leggere i termini contrattuali, che quasi nessuno legge, scopri che sì, non stai pagando per il prodotto, perché il prodotto sei tu. Quando ci si iscrive a Facebook si sottoscrive in realtà un vero e proprio contratto d'uso. I gestori di Facebook su questo ovviamente hanno lavorato e ci hanno studiato, per cui le foto loro le possono utilizzare, ma possono utilizzare tutto, anche i contenuti che io scrivo. Li cedo a loro. Io li cedo non solo a loro, ma anche a terzi cessionari, quindi anche a pubblicitari, a persone che possono usare e che usano i miei dati a fini pubblicitari. Però io contemporaneamente sono l'unico responsabile civilmente e penalmente dei contenuti che pubblico su Facebook. Buonasera, in un'epoca ossessionata dalla tutela della privacy, 500 milioni di persone oggi si spogliano pubblicamente sedotte da Facebook, che dice tutto quello che sul sito è disponibile per permetterti di fare un'esperienza sociale e personalizzata, ha bisogno che tu racconti un po' di te. Intanto il fondatore Mark Zuckerberg ha sul conto qualcosa come 7 miliardi di dollari. Anche i fondatori di Google, poco più che trentenni, hanno messo da parte 15 miliardi di dollari a testa. Allora, questo era un brano della trasmissione Report della scorsa settimana e io già qui ci vedo però, perdonatemi, una distorsione giornalistica, no? Il meccanismo secondo cui si controllano, anche magari con tecnologie che permettono al profilo di rimanere anonimo, i comportamenti in rete delle persone non serve soltanto a generare dati che tu rivendi a società di marketing o a chi deve fare investimenti pubblicitari, servono anche a personalizzare il servizio e restituire valore nel servizio. Pensiamo per esempio a tutti i servizi di Google, dove è chiaramente la posizione dell'utente, no? Che è una tipica capability di rete, si direbbe in un operatore di telecomunicazioni, oppure proprio i dati di navigazione servono per avere servizi sempre più personalizzati e permettere alle persone di non dover impazzire nel mare magnum di Google. C'è per esempio Amazon, che per prima, no, come sapete, con la pagina personalizzata dei prodotti che tu trovi sul loro store, ha dimostrato le straordinarie capacità, perché quello è un servizio che funziona e che piace alla gente proprio perché tu hai qualcuno che indovina esattamente quello che tu vorresti comprare come libri, ascoltare come musica, eccetera. Quindi c'è questo risvolto delle operazioni tecnologicamente poco trasparenti, che quelle siamo tutti d'accordo che svolgono Facebook e Google, però questo risvolto in questa puntata non se n'è minimamente parlato. E questa in realtà è una grossa evoluzione della rete. È una grossa evoluzione della rete rispetto ai mainstream media, che ogni volta devono indovinare o comunque proporre un mondo precotto di contenuti, di scelte, governando in realtà molto di più le scelte e i contenuti in cui i telespettatori, per esempio, si imbattono. Cosa ne pensi di questo, Gian Andrea? Ma indubbiamente io credo che il concetto che bisogna far passare è il concetto che se si vuole, che non esiste nulla di gratuito. Allora, non esistendo nulla di gratuito, l'utente che va in rete ovviamente deve ipotizzare che non è che ci sono aziende che creano degli enormi playground nei quali uno entra senza pagare e non succede niente. Detto questo, e quindi qui andiamo un attimo a dire che l'utente deve aspettarsi che qualche cosa da qualche parte sta pagando, non direttamente ma indirettamente senz'altro. Dal punto di vista giornalistico, indubbiamente non si sono messi in evidenza quelli che possono essere una serie di utilizzi, una serie di sviluppi che la tecnologia mutuata dal web 2.0 e la tecnologia in generale, che poi passa anche attraverso Google, attraverso Facebook, attraverso i social network, porta dei vantaggi. Allora Alessandro, lo chiedo a te, è una, questa almeno possiamo considerarla una critica fondata di questa trasmissione, cioè nel famoso come è andata a finire, no? Perché sapete che il report poi riprende i temi della puntata precedente, ci aspettiamo, non dico che si cospargano il capo di cenere, ma che almeno accolgano questa parte di critica che è stata rivolta loro. Ma io sono un po' dubbioso, perché se il come è andata, adesso non ricordo esattamente diciamo come replica nella puntata successiva, sarà un'ulteriore replica di come hanno risposto sia la Gabanelli che l'altra... La Rimini, anzi ora sai che facciamo? Leggiamo anche che cosa ha scritto la Rimini in una nota ufficiale. Ha detto... nota piuttosto stizzita, sì, anticipo. Ha scritto, in seguito alla nostra puntata del 10 aprile, il prodotto sei tu, ci saremmo aspettati una mobilitazione del popolo della rete italiano in difesa della libertà di espressione su internet, visto che l'autorità garante delle comunicazioni sta ancora conducendo audizioni a riguardo... e il momento giusto per farti sentire sarebbe adesso. Invece nessuno ha mosso un dito per digitare una mail di protesta. Devo fare una parentesi. Noi chiaramente abbiamo provato, per garantire il contraddittorio ad avere... Abbiamo provato anche con la Gabanelli, ma insomma non ci speravamo molto, perché è una donna chiaramente molto impegnata. Però volevamo avere almeno l'autrice, la, appunto, Stefania Rimini, in trasmissione. Lei ha detto che preferiva non intervenire. Noi stiamo cercando di dare tutto lo spazio possibile anche alle loro tesi, però adesso sentiamo che cosa hai da dire tu su questa risposta stizzita, che rappresenta forse un'ulteriore escalation del dibattito. Ma il problema su me è proprio quello, perché allora diciamo che qui c'è un equivoco di base. Intanto tra parlare in modo semplice di cose complesse e parlarne in modo frammentario e anche un po' preconcetto c'è una bella differenza. Report è una trasmissione che rispetto ai normali tempi televisivi dura un'eternità, cioè 2 ore sono un tempo enorme all'interno del quale si può arrivare a dare diciamo un quadro sufficientemente completo, onesto e intelligente delle cose. Però qui c'è un errore di base, secondo me, il fatto che internet sia un qualche cosa del quale si può parlare in modo appunto intelligente, profondo, completo, informativo, eccetera, eccetera, in 2 ore. Quindi, se vogliamo, io vedo l'errore principale, sul quale poi siamo un po' inciampati, se vogliamo anche un po' nei commenti, il fatto che loro abbiano tagliato questa puntata su internet esattamente come normalmente taglia una puntata che per 2 ore parla di rifiuti, di politica estera, di maremoti. Certo, certo. Qui invece internet è una materia estremamente complessa, della quale francamente anche noi diciamo che ci arroghiamo l'appellativo di addetti ai lavori, stiamo in realtà facendo gli esperimenti con composti chimici instabili. Sì, e cerchiamo di correre dietro un treno, esatto, non lo prendiamo, esatto, mai. No, come poi capita in molti altri settori, sì. Cioè in realtà noi stiamo facendo quello che probabilmente facevano i biologi di 150 anni fa, che mescolavano delle sostanze e vedevano che cosa succedeva. Noi facciamo fondamentalmente lo stesso. Sarebbe onesto che anche noi, diciamo così, addetti ai lavori, lo dichiarassimo nelle intenzioni, ovvero che esprimiamo pareri fondamentalmente, ma che qui di scientifico non c'è ancora quasi nulla. E invece c'è questo atteggiamento di fondo. Sentiamo, esatto, ancora un brano della trasmissione. In questo caso vi facciamo vedere quanto è facile rubare l'identità ad un utente di Twitter. Per esempio qua, ora sono in un altro browser e sto simulando l'esistenza di un'altra persona o di un altro computer che sta eseguendo la login. Ora lo sto facendo a me stesso perché è illegale. Quindi uno da questa parte accede. Questo è, diciamo, l'utente vittima. L'attaccante ha visto che un'altra persona con questo username si è collegata allo stesso social network. Adesso basta che l'attaccante clicchi questo tasto e comincia a catturare il traffico che viaggia sulla rete. Si copia quel che serve ed ecco che si è connesso a Twitter come se fosse l'utente vittima. Da questo punto in poi può mandare messaggi a tutti i contatti dell'altro. E Twitter non è l'unico servizio online ad avere questo baco. Amazon, Facebook, Google, Windows Live, Tumblr, Twitter, WordPress, Yahoo, i più noti. Alcuni di questi hanno sanato questo bug, altri no. Google e Foursquare hanno sanato il problema, obbligando l'utente a connettersi in maniera sicura in HTTPS. Facebook invece ha lasciato l'HTTPS a livello facoltativo. Perché? Perché può causare degli effetti indesiderati. Per esempio, alcune applicazioni potrebbero fare più fatica a funzionare. Quindi procediamo con calma perché vogliamo essere sicuri che tutto funzioni bene. Vorranno anche essere sicuri di non rimetterci quel 30% che tutte le applicazioni che girano su Facebook gli retrocedono dai loro ricavi. E gli utenti lascia che si arrangino. È un po' come l'oratorio di una volta. Tu andavi all'oratorio, no? Parlavi con la suora, parlavi con questo, parlavi... Magari dicevi, non dirlo a nessuno. Tu eri sicura che in una settimana lo sapeva tutto il paese. era il Facebook di una volta, scusate. Va bene, abbiamo sentito un altro brano che è stato accusato un po' di allarmismo, di sensazionalismo. Gian Andrea, la tua opinione? Ma, allora, alla fine non è che una giornalista ha detto guardate che vi possono portare via l'identità o violare, eccetera. È stata una persona che lavora nella rete, che si è fatta intervistare e ha raccontato determinate cose. Allora, così come lui, così come altri si sono raccontati in questa trasmissione, alcuni autoattribuendosi anche delle definizioni bizzarre, voglio dire, non è che l'hanno chiesto a gente che passava per strada, hanno preso uno che fa di mestiere queste cose, e non di rubare ovviamente gli accessi, ma che conosce questo mestiere e che dice, vuoi violare? Basta che fai così e così, basta. Quindi, la trasmissione, pur con tutti i suoi limiti, alla fine ha delineato quello che è lo specchio di alcune realtà. Dirò di più, visto che è un argomento caldo che stiamo vedendo in questi giorni sulla rete, dove si affollano guru che criticano le aziende, io non trovo molta differenza tra come gli stessi guru hanno reagito a questa trasmissione e come reagiscono le aziende quando vengono messe in discussione dagli utenti. Perché ci sì, sono sorge che il l'hanno sospetto. Presa molto sul personale. Sì, sorge il sospetto che il messaggio di fondo non sia poi il merito della questione, ma guarda, io sono io e tu non sei nessuno, per usare una parola gentile. Cioè, questo è un po' il messaggio sottotraccia che arriva. Cioè, non appena tu hai, anche in rete, uno strapuntino e ti prendi una briciola di quella che pensi di poter chiamare audience, immediatamente ti comporti come se fosse Milena Gabbanelli oppure come se fosse un grande brand. Alessandro? Guarda, come se, cioè, c'è questa sindrome della star. Sì. C'è questa sindrome della star che è molto diffusa. Sentiamo anche Alessandro su questo tema. Ma io sulla sindrome della star sono sostanzialmente d'accordo, è forse una delle poche occasioni in cui mi trovo d'accordo con Gian Andrea, che saluto, anche se un amico, il più delle volte abbiamo di che discutere anche animatamente, pur rimanendo, diciamo, secondo nell'ambito delle regole cavalleresche. Ora, il problema delle star c'è nel mondo, diciamo, analogico, c'è pari pari, anzi forse amplificato da una eccezionale facilità di guadagnare, diciamo, gli onori delle cronache, si diceva un tempo. Quindi qui... Beh, già la parola microcelebrità è fuorviante, cioè ci sono delle persone che si considerano delle microcelebrità. Sì, ma si considerano tali perché, in un modo o nell'altro, probabilmente perché hanno incominciato a usare il mezzo, diciamo, internet, o il media internet, per dirla nel modo corretto, un po' prima di altri, ma francamente anche dopo altri che hanno fatto, io mi considero un vecchio della rete, ma ho sempre rinunciato, diciamo, coscientemente alla tentazione di utilizzare determinate tecniche e metodi per costruirmi questa microcelebrità fittizia. Però oggettivamente queste persone ci sono. Io tra l'altro sono forse la persona meno indicata per difendere Google, Facebook, Twitter e altri, perché proprio perché figurati li ho visti nascere, come sono indicato io per difendere la Gabbanelli, no? Appunto, siccome sono tutti diciamo fenomeni, io li definisco tali rispetto ad altri ambiti che ho visto nascere, che ho seguito dall'inizio. Ho avuto, se vogliamo, la fortuna di vederli nascere un po' per volta, cioè non mi ci sono ritrovato un bel giorno dentro facendomi prendere dall'entusiasmo del livello del rumore. Cioè, tra la musica classica e un concerto rock metallaro c'è una certa differenza. Ora, qui stiamo parlando, ritorno, di temi estremamente complessi, dei quali difficilmente è possibile in poco tempo riuscire ad arrivare, diciamo, a un ragionevole livello di approfondimento. Io capisco per certi aspetti l'intenzione didattica, però una delle cose che insegnano o che uno dovrebbe imparare che è una delle basi, la didattica, e che mettere troppi argomenti al fuoco finisce per risultare una sorta di tentativo di bignami, solo che il bignami uno lo consultava un po' per volta e secondo necessità. Certo. Qui è stato fatto un calderone di tutto, e secondo me, in parte sbagliando, in parte esagerando, questo l'abbiamo sostanzialmente detto, ma parte del risentimento, non dei super guru di internet, che poi insomma se andiamo a vedere vivono anche di un'autoreferenzialità di gruppi relativamente ristretti, molto funzionale a appunto validarsi a vicenda. Però certo l'argomento avrebbe meritato un altro approccio probabilmente, e ritorno anche da parte della rete una risposta diciamo meno da ruffapopoli, perché insomma non è detto che se uno è un virus debba essere il massimo esperto di virologia. Va bene, io chiederei a questo punto a Gian Andrea una battuta per chiudere questa conversazione. Qual è la lezione forse che si può imparare dal modo un po' scomposto in cui si è svolto questo dibattito? Ma allora, secondo me è che se razzoli male difficilmente puoi predicare bene. L'antico adagio. Mi piace questa. Girato nella miglior tradizione, ma girato. E quindi io credo che la lezione che dobbiamo imparare tutti è che dobbiamo parlare in modo semplice e chiaro, dobbiamo essere in grado di sostenere delle conversazioni, non dobbiamo sentirci unti dal Signore, come diceva Alessandro prima, siamo degli sperimentatori, e questo ci può far anche montare un po' la testa, ma gli sperimentatori alla fine sono delle persone il cui compito è provare, testare, dare dei risultati e poi trasferire quello che i risultati di questa analisi. Va bene. Altrimenti rischiamo semplicemente di essere degli onanisti. Perfetto Gian Andrea, conclusione degna della puntata giustamente polemica. Speriamo che poi vi sia un po' di conversazione anche sul blog della trasmissione www.conversational.it, dove è possibile, lo ricordo ancora, scaricare tutte le puntate andate in onda fino a questo momento. Ringrazio ancora Gian Andrea Facchini, Alessandro Nasini, e vi do appuntamento alla settimana prossima.